Terra in vista. Le emozioni spiegate a mio figlio. Buon Natale da Federico Taddi e Telmo Piovani. Ciao, buon Natale. Telmo, eccoci. Ciao. Qua, eccoci qua ancora con Terra in vista, un viaggio nelle emozioni spiegate alle bambine e ai bambini. Abbiamo scelto tre parole, tre emozioni particolari, che sono amore, che sono desiderio e che sono anche paura, perché sono comunque tre sentimenti, tre emozioni che punteggiano un po' le giornate dei nostri cuccioli, e quindi ci sembrava bello fare questo viaggio. No, non è facile spiegare le emozioni. Ti vedo emozionato, però. Un po' sì, perché comunque è un tema delicato. Poi, insomma, in questi giorni dove sei tutti più buoni, più accoglienti, un po' più sensibili, mi sembra appunto il tema giusto da trattare. Partiamo con l'amore, quindi? Pronti. Ascoltiamo un po' cosa ci hanno detto i nostri giovanissimi ascoltatori sull'amore. Yuhu! L'amore, quando vuoi particolarmente bene a qualcuno, tanto che non riesci più a stare senza quel qualcuno. Per me l'amore è quando vuoi bene a qualcuno e hai paura che gli succeda qualcosa, non vuoi che gli succeda niente, vuoi che stia bene. L'amore è un dono che viene dal cuore, che io provo sulla mia famiglia, i miei fratelli e i miei genitori. Per me l'amore è tipo infinito, che può essere fra un uomo e una donna, oppure può essere anche fra un uomo e un uomo, una donna e una donna. L'amore è quando tu incontri una persona che si comporta bene con te, ti aiuta e ti sta molto simpatica, e da lì può nascere qualcosa. L'amore è quando due persone si amano, tipo io amo la natura. Insomma, abbiamo visto le tante facce dell'amore. Bravissimi. Sanno le idee molto chiare. Hanno accolto tutte le diversità delle forme dell'amore. Sì, insomma, le belle sfumature. Telmo, faccio la domanda allo scienziato: che cos'è? Che cos'è l'amore? Domanda difficilissima, perché bisogna innanzitutto capire quante sono le emozioni, sostanzialmente, dove si mette l'amore dentro queste, perché sai, tutti quelli che hanno studiato le emozioni hanno fatto un catalogo diverso tutte le volte, però di solito si dice che sono quelle fondamentali: la paura, la rabbia, la felicità o anche la gioia, la tristezza, il disgusto, il desiderio e alla fine l'amore, che probabilmente è quella che le tiene insieme tutte. Poi c'è chi discute se le emozioni siano tutte negative o siano un miscuglio sempre di positivo e negativo, e poi se le emozioni hanno sempre il loro contrario. Vogliamo fare questo gioco? Per esempio, tristezza è facile, felicità, certo. L'amore, il suo contrario, è l'odio. Vediamo se sai il contrario della gelosia. Il non essere gelosi, c'è anche quella. Che non è l'altruismo. No, si chiama compersione. Ah. L'ho imparato anch'io recentemente. Ed è il non essere geloso, che penso nessuno di noi due, noi italiani, ce l'abbiamo poco. La compersione. E poi l'amore si discute se sia un'emozione sola. In realtà è talmente stabile, è una costruzione, è un legame, un insieme di legami, è un impegno costante, che per molti scienziati in realtà non è una singola emozione, ma è un generatore di emozioni, perché genera gioia, felicità, senso di compiutezza, però anche struggimento quando l'altro con cui siamo legati è lontano, oppure quando si lega la paura genera proprio la gelosia. Secondo Darwin, gli istinti sociali e l'amore erano l'architrave praticamente della società umana: l'amore del padre, dei figli, delle madri, per il compagno, per il prossimo, per gli animali, per la natura, come ha detto il bambino, ma anche l'amor proprio. Insomma, è praticamente quel tessuto di legami che tiene insieme il mondo. E per andare a vedere le emozioni chiederemo aiuto anche in queste puntate a degli scrittori, a delle scrittrici, perché sono un po' dei giocolieri, secondo me, delle emozioni, quindi mi sembravano le persone giuste per raccontare ai nostri giovanissimi ascoltatori questa dimensione. Per parlare di amore abbiamo il piacere di avere qua con noi Silvia Avallone. Ciao Silvia! Ciao! Ciao, grazie dell'ospitalità! Grazie a te, buon Natale intanto! Buon Natale! È una parola che spaventa, la parola amore, uno scrittore, una scrittrice? Beh, decisamente è una delle cose più difficili da raccontare, proprio perché implica anche una trasformazione, secondo me, nel modo di vedere l'amore. adesso per esempio ti direi che l'amore per me coincide con l'amore adulto, ha a che fare con la libertà dell'altro, ha a che fare con la durata, con un progetto a cui non chiedi niente ma a cui partecipi, ed è molto diverso per esempio dall'amore adolescenziale. Eh sì, è vero, insomma, che è più ribelle, più movimento, è più incasinato anche forse. Ma è estremamente difficile, perché a me è piaciuto molto per esempio raccontare l'amore in cui hai bisogno dell'altro, se no non sei nulla, cioè l'amore sbagliato, quello che non è amore alla fine, il desiderio di essere una cosa sola con un'altra persona. Alla fine credo che l'amore sia proprio il contrario dell'essere una cosa sola, anzi l'amore è due persone distinte. Che bello. Ed è difficile da raccontare a parole l'amore, Silvia? Ma è difficile, secondo me, anzitutto da vivere, nel senso che pensiamo all'amore per i figli, quante paure, quante fragilità, no? Si porta dietro un genitore fragilissimo, ha paura di tutto, vorrebbe proteggere da tutto, ma il suo compito d'amore è quello di separarsi da suo figlio. Un matrimonio allo stesso tempo non è possedere qualcuno, ma aiutare qualcuno a percorrere la sua strada. Abbiamo diciamo una sfida più grande di noi. Silvia, ma vediamo se una scrittrice risolve un grande enigma scientifico. Esiste secondo te davvero l'amore incondizionato? Cioè davvero un amore che va in una sola direzione e non vuole niente in cambio, o no? Beh, secondo me sì. Ora mi cogliete proprio due anni dalla nascita di mia figlia quindi. Direi che quello è un amore assolutamente incondizionato, ma anche l'amore per la propria mamma. Questi sono amori che davvero hanno a che fare con la felicità tua in connessione alla felicità degli altri. Con un compagno invece è più divertente, perché devi sempre come dire, accettare la sfida nel tempo, a 20 anni, a 30 anni, a 50 anni, a 70 anni. L'amore con un compagno va sempre reinventato, nelle condizioni, ma per essere incondizionato. Silvia, un'ultima domanda. Prima le bambine e i bambini ci dicevano appunto l'amore tra le persone, l'amore nei confronti degli animali, e poi c'è anche l'amore per quello che si fa. Tu la ami la scrittura? Cioè, si può usare questo verbo? Questo è un amore adolescenziale, nel mio caso, nel senso che è un amore che non ha trovato pace, però posso dire che amo incondizionatamente i miei personaggi. Quando finalmente decidono di venirmi a trovare, di lasciarsi raccontare, il mio è un amore veramente pulito e puro. Che bello. Grazie davvero a Silvia Vallone per essere stata qua con noi in questa mattina di Natale. Buone feste ancora, Silvia. Ciao. Ciao, auguri. Grazie a voi, buone feste. Ciao. E noi continuiamo con le grandi domande dei bambini, a cui poi daremo risposte. Domande come questa. L'amore viene dal cuore o dalla testa? Cuore o testa? E bella... soprattutto dove sono cuore e testa? Non saranno mica la stessa cosa? Una bella diatriba, eh? Per tentare di dare una risposta, diamo il benvenuto a Costa Priftis, un tuo collega dell'Università di Padova, sì, giusto? Un amico. Un amico e... Psicobiologo. Studia le parti del cervello e cosa succede nel nostro cervello quando siamo emozionati. Buongiorno e benvenuto, ciao! Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Costas, buon Natale, benvenuto. Buon Natale anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora Costas, dove sta l'amore? Nella testa o nel cuore? Si può trovare, si può definire? Allora facciamo un tentativo. È una domanda sicuramente difficilissima, non lo sappiamo. Nella vita quotidiana, per esempio, pensiamo che sta nel cuore. Disegniamo cuoricini per esprimere l'amore, per esempio. Parliamo di affari del cuore, abbiamo il cuore a pezzi a volte e così via. Persino grandi studiosi dell'antichità come Aristotele pensavano che l'amore e altre funzioni mentali avevano sede il cuore. La mia opinione è che molto probabilmente, come diceva un altro studioso, Ippocrate, la sede è il cervello invece. Mm-hmm. Ma è la sede solo dell'amore, cioè nel senso c'è uno spazio del cervello, c'è una scatolina in cui c'è scritto amore ed è tutto lì dentro. Come funziona? Allora, no, c'è spazio per tutti lì dentro, c'è spazio per l'amore, per l'odio, ma c'è spazio anche per la memoria, per il pensiero e per tutto. Pare comunque che alcune parti del cervello sono più specializzate per rispondere agli stati che noi, affettivi che noi chiamiamo amore. Abbiamo una serie di aree più nuove, diciamo, nell'evoluzione, quelle della corteccia, dello strato più esterno del encefalo, sì, che sono coinvolte, e una serie di altre aree più antiche che le abbiamo da quando eravamo nel cammino evoluzionistico, insomma, un po' più remoto, che pare che siano coinvolte. Allora, come lo sappiamo noi questo? Grazie a delle tecniche che abbiamo negli ultimi anni, per esempio la risonanza magnetica funzionale, una di queste tecniche, possiamo vedere cosa succede, quali aree si accedono, si attivano, quanto noi siamo innamorati o quanto per esempio vediamo le foto delle persone che amiamo e così via. Proprio una collega e amica, Stefania Ortig, qualche anno fa, ha messo insieme tutti questi studi che erano stati fatti fino a quel momento a proposito dell'amoramento e ha visto che circa una dozzina di aree cerebrali diverse, sia della corteccia sia quelle sottocorticali, si accedono, per modo di dire, quando noi siamo innamorati. La cosa ancora più bella è che l'amore non è un'unica cosa, cioè non è un monolito. Abbiamo diversi tipi di amore. Abbiamo l'amore, per esempio, romantico, passionale per la nostra compagna o il nostro compagno. Abbiamo anche l'amore materno, quello per gli amici e così via. La cosa estremamente interessante è che pare che abbiamo delle aree cerebrali che si attivano in concerto, in maniera sincronizzata, che sono però diverse per l'amore romantico passionale e per l'amore materno. Sembra quasi un videogame. Sì. Ma Costas, tu ci stai raccontando una sorta di sinfonia che c'è all'interno del cervello, con tante reti che si distribuite, che si connettono tra di loro. Però forse allora nel cervello ogni tanto possono esserci anche dei conflitti, no? Tra le parti più profonde, hai detto tu, che vengono dalla nostra evoluzione, e quelle più recenti. C'è una specie di parlamento dentro il nostro cervello? Certo, ci sono conflitti. Pare che sia proprio così. A volte le nostre parti cerebrali più vecchie vogliono e desiderano alcune cose, mentre le nostre aree più recenti vogliono altre cose. Sicuramente c'è un parlamento, c'è una gerarchia, c'è un'azienda. Abbiamo delle aree più recenti da un punto di vista dell'evoluzione, come le aree più anteriori dell'encefalo, per dire i lobi frontali, che funzionerebbero come un direttore di orchestra o come un esecutivo centrale, insomma un'azienda, che cercano di mettere in accordo altre aree, sia corticali che sottocorticali. Anche nell'amore, quante volte non succede che una parte probabilmente sottocorticale ti spinge verso una persona, mentre una serie di altre parti, quelle che magari presiedono al ragionamento logico, eccetera, ci fanno scappare lontano, per esempio, e così via. Sicuramente abbiamo un'orchestra lì dentro, i violini o i tamburi o le corde, eccetera. Ognuno può dare anche per conto suo, ma abbiamo anche il direttore dell'orchestra che cerca di mettere tutte le parti insieme per raggiungere un obiettivo e così via. Costas, ma adesso mi metto nei panni delle bambine e dei bambini che ci stanno ascoltando, sì. Ma tutto ciò lo si può capire? Cioè uno può chiacchierare con il proprio cervello, può accorgersi di quello che succede lì dentro? Allora, ma può chiacchierare col proprio cuore, e adesso ecco perché c'entra anche un po' il cuore, cioè ritorniamo alla domanda iniziale, cervello, testa o cuore. Allora, se noi mettiamo una mano sulla testa non sentiamo nulla o quasi nulla, ok? Non sentiamo l'amore, non sentiamo la tristezza e così via. Se mettiamo però questa mano sopra il cuore o sopra qualche arteria che porta il sangue nel corpo, noi quando siamo innamorati, in alcune fasi almeno dell'innamoramento, sentiamo il cuore che effettivamente batte forte. o sediamo il sangue che passa molto velocemente e così via. Allora, questo perché succede? Non perché il cuore è la sede dell'amore, ma per una serie di motivi. Il cervello, che è connesso con tutto il nostro corpo, fa sì che il cuore comincia a battere forte. Ecco perché c'è questa misconcezione, cioè non capiamo bene, attribuiamo al cuore questa funzione, perché il cuore è palpabile, lo sentiamo, siamo consapevoli di questi movimenti, mentre non siamo consapevoli dei movimenti che fanno i neuroni, dei segnali chimici, fisici e così via. Sicuramente però, quando amiamo una persona, siamo anche consapevoli di pensieri. Mm-hmm. Penso alla persona che voglio bene, fantastico, e immagino che è qui vicino, mi ricordo memoria, per esempio eventi che abbiamo trascorso insieme e così via. Ok, quindi effettivamente l'amore non lo posso toccare direttamente, però posso essere in contatto con i miei pensieri o con il mio cuore che batte forte. Che fantastico. È proprio il fascino, insomma, ci hai fatto vedere un'emozione, ce l'hai fatta toccare, credo che insomma obiettivo raggiunto. Grazie davvero a Costantinos Priftis per essere stato qua con noi in questa puntata dedicata all'amore. Ai vostri ascoltatori, grazie, buon Natale, ciao, grazie. E fischiettando adesso invece introduciamo la poesia, che insomma la poesia è legatissima ai sentimenti, lo facciamo con una poetessa e scrittrice. Diamo il benvenuto a Chiara Carminati, ciao Chiara. Ciao, benvenuta. Buon Natale a te, Chiara. Altrettanto. Allora, avremo tre emozioni che andremo a spiegare ai nostri figli in queste tre puntate e volevamo capire come la poesia ci può aiutare. Partiamo dall'amore. Una poetessa come lo fa vedere l'amore? Ma io diciamo lo evito, per quanto riguarda me lo evito, però è vero che poesia e amore sono strettamente intrecciati, tanto che è quasi un luogo comune, no? Che quando si è innamorati si scrive una poesia, anche chi non l'ha mai fatto prima, però in quel momento lì deve scrivere una poesia, e probabilmente perché c'è talmente voglia di comunicare quello che si sente che si cerca di farlo in tutti i modi, quindi anche con le parole e anche con le parole scritte, e anche con le parole scritte un po' sincopate, che è la caratteristica della poesia, cioè essere fatta di ritmo, essere fatta di spazi bianchi, di pensieri vuoti anche, oltre che di pensieri pieni. E quindi forse è per questo, insomma, di poesie sull'amore ce n'è così tante che cimentarsi sull'argomento è sempre molto difficile. Mm-hmm. I poeti dal canto loro però, oltre ad innamorarsi come chiunque, si innamorano anche delle parole, per cui certe volte le poesie nascono per l'amore, proprio per la parola, per il suono della parola, e da questo amore, da questa attrazione fortissima che il poeta sente per la parola, poi fa nascere, fa germogliare la poesia. Quindi non è sempre l'osservazione del mondo esterno oppure l'introspezione, quindi l'analisi di un'emozione, ma certe volte anche l'amore, sì, ma l'amore per una parola oppure per un oggetto, no? Cioè per qualcosa che ci sta intorno, al quale il poeta dedica particolare attenzione, che la parola attenzione, ecco, io la sento molto affine alla parola amore, l'amore è una forma di attenzione enorme, no? Che appunto coinvolge tutti i nostri pensieri, come dicevate un attimo fa, però si può porre attenzione anche su cose che ci stanno sotto gli occhi tutti i giorni, assolutamente quotidiane, e che magari usiamo o a cui siamo vicini senza badarci troppo. Ecco, allora la poesia come forma d'amore è una forma di attenzione, quindi dedicare una poesia all'astuccio o dedicare una poesia a una nocciolina, mm-hmm, è una forma di attenzione per le cose che ci stanno intorno, quindi di amore in senso un po' più largo. È vero, ma è bella questa cosa che insomma la parola giusta non è sempre quella che ha quel particolare significato, cioè la parola è giusta anche quando ha quel bel suono, quando in te muove qualcosa, mm-hmm, insomma sicuramente si può, sì. E delle volte non solo è giusta così, ma proprio è il germoglio dell'intera poesia. Insomma, così si può ampliare sicuramente il dizionario a propria disposizione. Grazie davvero, Chiara, per averci dato queste dritte. Le tue poesie ci accompagneranno in queste puntate. Noi ci ritroveremo domani quando parleremo di desiderio. Adesso invece ascoltiamo insieme Il mare in una rima, tratto proprio dalla raccolta che ha lo stesso titolo. Il mare in una rima. Arrivo sulle rive di Trieste, appena un poco triste di dover dire addio. Vorrei portarti via. Se si potesse chiudere il mare in una rima, starebbe intero dentro a mare. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Terra in vista. Terra in vista, le emozioni spiegate a mio figlio. Stiamo parlando di amore e lo stiamo facendo con le domande dei più piccoli. Come faccio ad accorgermi se sono innamorato? Bella domanda. Perché tu magari pensi di essere innamorato, forse senti qualcosa e non capisci bene cosa sia, pensi magari che sia un'influenza, invece no, sei innamorato. Oppure lo capisci troppo tardi. Oppure te lo dice qualcuno, oppure tu non l'hai capito perché non lo vuoi capire, che c'è anche questa opzione. Insomma, esatto. Sono tante variabili, andiamo a capire se c'è un modo oggettivo per scoprire se si è davvero innamorati. Lo facciamo con Giovanna De Maio, che è psicologa, psicoterapeuta, esperta in amore e in relazioni. Ciao Giovanna, buon Natale, benvenuta. Ciao, buon Natale. Buon Natale a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Allora, che stanno prendendo appunti in questo momento, ne sono certo, perché insomma, per capire se esiste una ricetta, se c'è un trucco, se ci sono degli indicatori dove davvero puoi capire se si è innamorati. Esistono questi indicatori? Un manuale. Assolutamente sì, diciamo che quando si è innamorati non solo te ne accorgi, ma se ne accorgono anche gli altri, e gli indicatori appunto sono i nostri cinque sensi. Intanto il pensiero, pensi sempre a quella persona quasi in maniera ossessiva, quindi sei lì che pensi a quella persona, parli di questa persona, incontri i tuoi amici e parli in continuazione di questa persona, che cosa fa, come lo fa, insomma quanto è unica e speciale, ogni scusa è buona, ogni incontro è buono per fare riferimenti verbali, quindi ne parli esplicitamente oppure pensare a quella persona, quindi magari i tuoi amici ti parlano e tu sei distratto, ti isoli. Questo è sicuramente uno degli indicatori importanti, quindi avere questo pensiero costante, quasi un po' ossessivo, che ti porta sempre a pensare appunto all'altro. Poi un'altra cosa sicuramente molto importante è tutto diventa magicamente più bello. Sicuramente l'innamoramento è una delle esperienze umane più meravigliose, cioè più importanti e più, diciamo, belle, che insomma è il vero senso della vita, e sicuramente è una di quelle cose che ci fa risvegliare e ci fa vedere il mondo davvero a colori. Infatti quando si è innamorati praticamente sei più positivo, anche se l'altro magari è irritante, il tuo vicino di casa, i tuoi genitori, il tuo collega, tendi ad essere molto più tollerante, quindi proprio perché vedi il mondo in full HD, diciamo. hai dato l'idea, sì, assolutamente. Le emozioni sono come dei colori, no? Le emozioni sono come dei colori, esatto, su una tavolozza. Bravissimo. Sono delle emozioni come una tavolozza, e quella persona, e grazie appunto all'esperienza della persona amata, della persona della quale poi sei infatuati, tu con quei colori di quella tavolozza crei cose che magari non hai creato fino al giorno prima, quindi è comunque un'esplosione di senso, un'esplosione di creatività, è quella cosa che di punto ti fa volare 2 metri sopra il cielo, come si suol dire. E infatti a volte si diventa un po' bambini, no? La vostra puntata parla appunto di bambini, l'innamorato un po' diventa bambino, e infatti fa cose a volte goffe, un po' goffe come i bambini, parla con un altro tono, magari il tono è molto più soffuso, è molto più intimo, si dimentica magari delle cose, lì un po' imbabbolato dal suo oggetto d'amore. Mm-hmm. Insomma, è una descrizione anche che fa un po' sorridere, no? Cioè bisogna un po' difendersi da questo stato, bisogna comunque stare attenti. Bisogna stare attenti ad una delle cose più belle della vita, ma io credo che invece bisogna cavalcarlo. E poi una cosa è innamorarsi, un'altra cosa è poi amare, quella è l'altra fase, perché l'innamoramento è la prima fase, poi scegliere di amare una persona, lì interviene invece l'aspetto razionale, quello appunto perché si ama per scelta. Molto spesso ci si innamora per caso, ma amare qualcuno poi diventa una scelta, perché un'altra cosa molto importante che accade nella fase dell'innamoramento è tu vedi l'altro praticamente perfetto, lo vedi senza macchia, senza difetti, senza peccato, lo vedi proprio bellissimo in qualche modo, e questo è quello, è un altro giochetto che appunto fa l'innamoramento, il far vedere l'altro come la proiezione dei tuoi bisogni, perché ognuno di noi ha questo bisogno intimo e atavico di amare e di essere amato, quindi quando incontra una persona che in qualche modo rispecchia delle sue caratteristiche, magari fisiche, magari emotive, catapulta dentro tutti i suoi bisogni, i suoi desideri, anche quelli più reconditi, e quindi innamorarsi molto spesso, come dicevo prima, può accadere anche per caso. Amare invece è una scelta, amare invece quando tu vedi la persona, quando è finita tutta questa fase in qualche modo, dove anche gli ormoni hanno un ruolo molto importante, perché c'è un cocktail di ormoni, quindi di adrenalina, dopamina, ossitocina, vasopressina, tutti questi ormoni ti fanno vedere, contribuiscono a far vedere l'altro bello. Quando questo cocktail, questa giostra, chiamiamola giostra, smette di girare, praticamente ti gira un po' la testa, appunto, perché quando una cosa è in movimento e il movimento si stoppa, ti gira un po' la testa, e poi hai bisogno di qualche minuto per riassestarti e capire che probabilmente molto spesso quando finisce l'innamoramento si vede davanti una persona completamente diversa rispetto a quella che si viveva nella fase da innamorato. E quando, quando l'infatuazione non è ancora corrisposta, come si fa ad esprimere all'altro o all'altra tutto questo? C'è una guida nell'era dei social soprattutto? Nell'era dei social diciamo che ai fiori si sono sostituiti i like, si sono sostituiti i commenti sotto le foto, sotto i post. Come si fa? Un po' come si faceva prima, sicuramente sono cambiati gli strumenti, ma quando una persona vuole far capire all'altro che è interessato, un messaggio scritto, un messaggio verbale, una telefonata, sicuramente se vuole può arrivare. E questi sono i consigli sotto l'albero della nostra Giovanna De Maio. Grazie davvero per essere stata con noi, per averci fatto vedere l'amore. Buon Natale ancora, ciao Giovanna. Ciao, buon Natale a voi e buon Natale a tutti. E dopo queste ricette, dopo questi consigli, è il momento di una storia di Telmo Piovani. Ma vorrei partire da questa domanda: amiamo tutti allo stesso modo nel mondo? Secondo te? Così a pelle direi di sì, invece no? Sì e no, nel senso che, perché questo è il grande tema su cui si dibatte da tempo, le emozioni nostre sono universali o sono definite culturalmente? Allora, da un lato sono universali, per esempio le espressioni facciali che noi usiamo per esprimere le nostre emozioni, dalla paura, alla sorpresa, al disgusto, all'amore, sono molto universali, sono ricerche fatte già negli anni 60 con le popolazioni indigene, per esempio della Nuova Guinea, dove anche loro, perché non erano mai entrati in contatto con noi, esprimevano le emozioni nello stesso modo. Poi ci sono settori del cervello che si attivano in tutto il mondo nello stesso modo. Ci sono dei geni legati a quegli ormoni di cui abbiamo appena sentito parlare che sono gli stessi dappertutto. Quindi sì, c'è molto di universale, però è anche vero che ci sono un sacco di variazioni culturali, perché i gesti, le parole, i movimenti degli occhi sono diversi da popolo a popolo. Per esempio, un popolo che vive nudo o seminudo è chiaro che esprimerà e avrà delle emozioni un po' diverse dalle nostre. Oppure il bacio, pensa al bacio, quanti se ne dà? 2, 3, dipende dalla cultura. Solo sulla guancia o proprio baciare? Anche tra gli uomini, pensa che in Russia, ma anche nell'antichità, era assolutamente normale che due uomini per salutarsi si baciassero sulla bocca. Noi invece questo lo consideriamo molto strano. Nel 2003 è uscito un articolo stranissimo su Nature dove spiegava la dinamica del bacio. Ci si bacia di più piegandosi verso destra o verso sinistra? È risultato leggermente di più verso destra. Ah, sì? Sì. Ovviamente bisogna stare attenti agli stereotipi e alle generalizzazioni. Quando si dice per esempio che gli asiatici sono più timidi perché non prediligono i contatti fisici come noi, pensa che in certe culture, questo è molto significativo, ci sono delle parole per delle emozioni che noi per esempio non abbiamo. 2 o 3 esempi: negli Inuit, negli eschimesi, loro hanno una parola per l'attesa trepidante che arrivi qualcuno. In effetti sui ghiacci, nella solitudine, non so neanche pronunciarla questa parola. In tedesco esiste una parola per un'emozione molto poco onorevole, che è quella di compiacersi delle sventure altrui. I finlandesi invece hanno una parola per, che è bellissima, per la nostalgia di un luogo in cui non si è mai stati. Quindi, come vedi, le emozioni hanno tante coloriture, diciamo, culturali. Sono universali, ma poi vengono declinate diversamente da ogni individuo e in ogni cultura. Questo è l'amore in giro per il mondo. Adesso invece andiamo a scoprire l'amore nel mondo animale. E quando a Terra in Vista si parla di animali, arriva lei, Caterina Spiezio, che è la responsabile del settore ricerche e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo, parconaturaviva.it, a cui diamo il ben ritrovato e il buon Natale. Ciao Caterina! Ciao! Ciao, buon Natale! Allora, a Caterina abbiamo chiesto appunto di accompagnarci in questo viaggio attraverso le emozioni, portandole appunto però nel mondo che lei ben conosce, che è quello degli animali. Partiamo dall'amore, che credo sia un sentimento ben presente, no, tra gli animali. Una storia di Natale tra gli animali. Una storia di Natale ce l'ho, ed è una storia molto bella, ed è l'amore tra la mamma e il proprio piccolo. È una storia un po' particolare. Una colonia di scimpanzé, c'era, normalmente si fanno degli esami di routine, ed era la giornata in cui si faceva l'esame di routine a Giorgina, che era questa femmina di scimpanzé di 8-9 anni, e durante un'ecografia si scopre che Giorgina è gravida, quindi c'è un embrione, per cui tutti molto attenti a questa situazione, perché Giorgina era veramente molto giovane, in più primipara, e temevamo insomma che non fosse in grado di allevare la propria piccola o il proprio piccolo, perché quando abbiamo fatto l'ecografia non sapevamo bene come ancora il sesso del futuro piccolo di scimpanzé. E quindi abbiamo monitorato Giorgina per tutto il tempo, fino a quando la mattina arrivano i chi, perché sono queste persone che si prendono cura degli animali, e trovano una piccola nuova nata, che però non è con Giorgina ma è con la nonna, che si chiama Luisa. E Giorgina era veramente molto spossata dal parto, perché Madà, che è il nome della piccola di scimpanzé che è nata, era molto grande, molto bella, quindi Giorgina, essendo primipara, si è trovata ad avere questo parto, che ha fatto benissimo, senza nessuna difficoltà, perché noi non c'eravamo, però sostanzialmente la mattina l'abbiamo trovata comunque in salute, solo che Giorgina era veramente molto, molto spostata. Giorgina pian pianino si riprende, ma la nonna, che ha la piccola, non è molto dell'idea di lasciare la piccola alla mamma. Quindi abbiamo questa triade dove c'è mamma, piccola e nonna, che si muovono insieme, ma la nonna non lascia Madà a Giorgina. Il problema è che Madà deve mangiare, deve essere allattata, e il latte la nonna non ce l'ha, ma ce l'ha soltanto Giorgina. Quindi si pensa come poter intervenire in questa situazione, perché più delle volte bisogna lasciare che le cose vadano secondo il comportamento degli animali, che decidono e trovano la loro modalità per raggiungere poi l'obiettivo. E non riuscendo Giorgina ad intervenire, noi non sapendo quanto fosse comunque forte il legame tra Giorgina, femmina primipara e diciamo la sua piccola, abbiamo deciso di intervenire. È stata addormentata leggermente la nonna, giusto il tempo di poter spostare la piccola Madà, ed è stata creata una situazione dove c'era la possibilità che da sola Madà e Giorgina si incontrassero. Per la prima volta dopo un'intera giornata Madà emette una sorta di vocalizzo, un piccolo pianto, e Giorgina, appena sente il richiamo, corre verso la piccola e la prende. A questo punto noi eravamo decisamente tranquilli, perché questo vuol dire che comunque aveva riconosciuto la piccola e l'aveva portata a sé. Però Giorgina, essendo una piccola, una giovane femmina, comunque molto giocherellona, nel frattempo tiene con sé la piccola, uniamo la nonna, li riuniamo all'interno del gruppo di scimpanzé. Nel corso del tempo Giorgina capisce che però la nonna è un elemento molto utile nell'allevamento della piccola Madà, quindi alleva Madà, le fa grooming, coccole, la carezza, la ripulisce molto bene sul viso, gli occhi, le dà veramente molte cure. Però appena può, appena finito questi momenti di interazione con la piccola Madà, la lascia alla nonna Luisa e lei inizia a giocare e a fare caprioli con le altre giovani femmine all'interno del gruppo di scimpanzé. Questa è una storia molto bella, perché c'è la possibilità di vedere come i nonni, anche nell'ambito degli animali, sono delle figure importanti, soprattutto in gruppi come gli scimpanzé, dove i legami familiari sono dei legami molto forti, dove il rapporto mamma-piccolo dura per almeno 5 anni. E la cosa particolare è che al quarto anno di vita di Madà, la nonna Luisa si ammala, e il legame che si era creato tra Madà e la nonna era comunque un legame veramente molto importante, e abbiamo deciso di non allontanare completamente la nonna dal resto del gruppo degli scimpanzé. Quindi è stata curata in una stanzetta accanto, in modo tale che potesse vedere tutti gli altri individui, e la sera al rientro, l'ultima sera, perché poi la nonna Luisa ci ha salutato e si è addormentata per sempre, Madà è arrivata verso la stanzetta della nonna e l'ha guardata per un periodo di tempo molto lungo, con questi occhioni marroni veramente grandi, ha continuato a guardarla proprio come per darle l'ultimo saluto. Ed è stata l'unica Madà, perché gli altri andavano, la salutavano, facevano le loro cose, mangiavano, si muovevano, quindi era una cosa molto veloce. E quella sera invece Madà ha stato per molto tempo vicino alla nonna, guardandola veramente come se fosse l'ultimo saluto. Quindi questa è proprio una bella storia che raccontarla mi emoziona ancora tanto. Dunque vuol dire che quando lasciamo i nostri figli ai nonni non dobbiamo sentirci in colpa, perché è un retaggio evolutivo molto profondo. Molto profondo, sì. È molto vero, una bellissima storia di Natale che insomma ci ha proprio fatto capire, sì, in maniera emozionante cosa sia l'amore. Grazie davvero Caterina, ci ritroviamo domani quando invece parleremo di desiderio. Ciao, ancora buon Natale. Buon Natale. Grazie, a presto. Adesso è il momento di una poesia, ancora Chiara Carminati, tratto dal libro Rime chiaroscure. Ecco, gatto. Gatto. Ombra dagli occhi d'ambra, bandolo di mistero, muso vibrante fusa, coda con piglio altero, passi come carezze, zampe nido di uncini, pelo di notte spezie, fiato di bocconcini. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta Terra in Vista. Eccoci qua ancora con Terra in Vista, le emozioni spiegate a mio figlio. La parola di oggi è amore. Ascoltiamo ora la terza domanda dei nostri giovanissimi ascoltatori. I robot si possono innamorare? Tema classico, l'amore tra le macchine, fantastico. Sì, perché insomma ci si innamora spesso del proprio smartphone, ci si innamora della console, della macchina, dell'auto. Esatto. Però poi c'è il robot, che insomma, tema di grande attualità, perché non è più solo il nostro futuro, ma ormai è il nostro presente. Beh, e i robot provano emozioni, si possono o si potranno innamorare tra di loro? Per avere la risposta abbiamo con noi l'esperto, direi, no? Di quando si parla di robotica. Diamo il benvenuto a Giorgio Metta, vice direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ciao Giorgio, benvenuto a Terra in Vista. Ciao, buon Natale. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, bella domanda, quella che ci ha posto il nostro ascoltatore. I robot si possono innamorare? Assolutamente, domanda interessante e complicata, nel senso che stiamo comunque parlando di macchine e per quello che ne sappiamo fino a questo momento chiaramente non sono coinvolte le emozioni. Mm-hmm. Certamente una cosa che sarà interessante nel prossimo futuro è quanto noi invece esseri umani in qualche modo ci connetteremo a queste macchine, un po' come succede con lo smartphone, un po' come succede con tutti i nostri apparecchi digitali. Quindi sarà sicuramente più il lato umano degli uomini, la macchina probabilmente risponderà in qualche modo, come appunto succede già con le cose che abbiamo. Certo. Giorgio, hai detto però... per quello che ne sappiamo ora, ma non siamo noi a decidere se i robot si innamoreranno o meno? No, appunto, dicevo, per quello che ne sappiamo ora, dal punto di vista della realizzazione delle macchine e da quello che sappiamo dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, quindi non possiamo escludere che un'intelligenza molto sofisticata in un futuro più remoto possa arrivare anche a simulare, diciamo, dei comportamenti che in questo momento sono propri dell'essere umano, come le emozioni. Però è un argomento che probabilmente richiederà delle macchine un po' diverse, magari non saranno macchine digitali come sono fatte quelle diciamo attuali, non saranno i calcolatori di oggi, non si può escludere che un'intelligenza artificiale molto, molto sofisticata non possa anche raggiungere quindi quel livello emozionale che invece è proprio dell'essere umano. Però proseguendo, Giorgio, in questo esercizio di immaginazione, queste intelligenze artificiali del futuro dovrebbero comunque provare emozioni e innamorarsi in modo comunque diverso da noi, no? Perché sono comunque su una base biologica, anzi non biologica, diversa dalla nostra, o no? Sì, ci sono, è un problema complesso questo, perché è difficile pensare come saranno fatte queste ipotetiche macchine del futuro, nel senso che potrebbero non essere digitali come sono i computer di ora, potrebbero essere delle realizzazioni molto più vicine a quello che è un sistema biologico magari, quindi con delle logiche più simili a quelle della biologia e meno simili a quelle del calcolatore digitale. No, stiamo parlando veramente di fantascienza in qualche modo, per quello dicevo prima, per quello che ne sappiamo oggi, nel senso che noi stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale che è basata completamente sul calcolatore digitale. Mm-hmm. Giorgio, stavo pensando, però io ho avuto la fortuna di poter visitare i vostri laboratori e stavate insegnando a giocare a un robot, no? Cioè, proprio giocava come se fosse un bambino. Sì. Ma quindi vuol dire che magari non si innamora, però si sa divertire un robot? Allora, il divertimento in realtà, per quanto concerne la macchina, di nuovo un concetto che noi umanizziamo e chiamiamo divertimento, la macchina ha dei meccanismi che gli consentono di imparare, per imparare chiaramente deve avere una motivazione di qualche tipo, quindi avere dei segnali che dicono o che lo portano a esplorare l'ambiente. In questo senso lui si diverte quando ha degli stimoli nuovi. Gli stimoli nuovi poi vengono incorporati nella macchina per imparare a fare cose nuove, quindi a muoversi sempre meglio, a vedere, a percepire il mondo in maniera sempre più sofisticata. Quindi sono in qualche modo noi poi diciamo ok, si sta divertendo. Nella realtà dei fatti sono dei segnali che abbiamo dentro questa intelligenza ancora primitiva, ma che servono proprio per consentirgli di imparare. Uh-huh. E sa fingere il robot? Cioè, tipo, può raccontare bugie? Al momento sicuramente no, nel senso che diciamo, prevalentemente il modo in cui sono state costruite queste macchine rispondono in maniera abbastanza logica a quelli che sono gli stimoli esterni. Quindi ancora non c'è un processo che potremmo chiamare mentale dentro la macchina che gli fa individuare delle strategie così sofisticate che richiedono addirittura il fingere o il mentire. Per cui lo posso escludere al momento, di nuovo, se vogliamo proiettarci in un futuro molto remoto, potremmo immaginare che una strategia per risolvere un problema richieda anche il mentire, un po' come fa l'essere umano. Certo. Ma questo è interessante, perché io leggevo che anche i robot che sono dei bravissimi giocatori, per esempio di scacchi o di altri giochi, anche d'azzardo, fanno fatica a bluffare, a imbrogliare. Ma questo allora vuol dire, domanda filosofica, che ciò che rende tipica l'intelligenza umana è quella di imbrogliare? È sicuramente una capacità molto molto avanzata, perché richiede in qualche modo inventare una strategia che include dire una cosa sbagliata o comunque palesemente non vera per ottenere però un risultato finale che invece è positivo. Per cui nel caso del giocatore di azzardo, in qualche modo il bluffare è utile per ottenere lo scopo finale. Quindi non si può escludere che non sia una strategia vincente, sicuramente nel caso del gioco d'azzardo potrebbe essere che la macchina a un certo punto capisca proprio che la strategia vincente richiede la bugia. Beh, insomma, non sappiamo se si innamoreranno o come si innamoreranno. Io ho visto alcuni robot, anche dei vostri, fare un po' gli occhi dolci, illuminarsi, perché comunque c'è, no, per instaurare una sorta di relazione anche con le persone. Quindi, empatica. Sì, non è amore, però sì. È sicuramente vicinanza, però insomma, fa aprire molte riflessioni questo discorso sui sentimenti e la robotica. Grazie davvero, Giorgio, per averci introdotto in questa dimensione. Buon Natale ancora e buon lavoro tu e i vostri robot. Grazie, buon Natale. Ciao, a presto. E dopo aver parlato di amore e robot, è il momento di un'altra storia di Telmo, sempre a tema amore. Dove ci porti? Ma ti porto nel racconto di una storia che ha veramente dell'incredibile, di un uomo che in qualche modo è diventato un robot, perché è l'uomo che perse il suo cervello emotivo e divenne incapace di amare, ma riuscì a sopravvivere comunque. È una storia incredibile, è successa nel 1848. Lui si chiamava Phineas Gage, era un operaio di 25 anni delle ferrovie statunitensi che ebbe un incidente terribile. Ci fu un'esplosione accidentale, lui stava lavorando con degli esplosivi, che fece schizzare una sbarra che lui stava usando, che gli trapassò il cervello da sopra l'occhio sinistro e gli portò via proprio letteralmente una parte del cervello davanti sopra l'occhio. E tutti avrebbero pensato, beh, ovviamente è morto sul colpo. Invece no, si è risvegliato praticamente subito ed è riuscito a sopravvivere per 12 anni a questo incidente. Soltanto che già nei minuti successivi ci si è accorti che era una persona diversa, non era più un ragazzo normale come prima. Era diventato irriconoscibile, diceva parolacce, cambiava umore molto facilmente, era pieno di scatti di ira, non aveva più freni inibitori e soprattutto non era più capace di fare previsioni, di calcolare i rischi di quello che faceva praticamente, metteva a repentaglio la propria vita. E lì si è capito che aveva perso proprio una parte del cervello legata a come gestire le emozioni. E lì si è capito che dalle nostre emozioni non dipendono soltanto i sentimenti, le nostre reazioni, ma dipende proprio il nostro stare al mondo. Cioè si è capito che ragioni e passioni sono in realtà strettamente connesse. Quando perdi le emozioni non sei più neanche capace di ragionare, tant'è vero che spesso si dice, quando uno dice io sono un tipo razionale, beh, in realtà già nel dirlo sta esprimendo un'emozione di orgoglio, di passione, di amor proprio. Quindi quello che si è capito è che le emozioni sono un brodo, come già aveva capito Darwin, che riempiono, che impregnano tutto il nostro cervello, tutta la nostra vita, e hanno anche un valore cognitivo, cioè ci fanno imparare a stare al mondo e a conoscere gli altri. E questo lo sanno benissimo quelli che scrivono le pubblicità, quelli che fanno marketing, perché lavorano proprio sulle emozioni di chi poi deve andare a scegliere un prodotto rispetto ad un altro. Le emozioni come un brodo natalizio nello specifico, infatti noi ci siamo tuffati dentro in queste puntate dedicate all'amore, al desiderio domani, alla paura, il primo di gennaio. Un grazie a Paolo Corleoni, oggi in assistenza alla parte tecnica, Valentina Ternullo e Guido Scotti che ci hanno dato una mano nel preparare le puntate. Radio24.it, da dove potrete riscaricare il tutto. L'appuntamento, come vi ho detto, è domani alla stessa ora. Buon Natale ancora, Telmo. Anche a te. È desiderio domani, la parola tosta. Anche ci prepariamo, già lo desideriamo. Certo. Vi salutiamo con una poesia ancora di Chiara Carminati. Il titolo è Poesia per terra, tratta dal libro di Topi Pittori, Poesie per aria. Poesia per terra. Tu, terra, sei strana davvero, lo sai? Le dice il cielo girandole intorno. Ti muovi sempre, non ti fermi mai, sei inquieta di notte e di giorno. Mi dai un po' noia, ma io sai che faccio? Ti amo lo stesso e tutta ti abbraccio.